Bacchigio mi sembra questo periodo, si sa a riposo, si sta dando, mi sta passando la voglia anche a lui. Lei ieri sera non è entrato, no? Deve essere, ma da giù deve essere che non fa, o c'aveva gente ieri, ma stasera, Ma sai che se può essere impegnato con gente, cosa vuoi, capita anche queste cose, cosa fai, non puoi rimanere qua, viene gente e per forza mollare, capito, io non l'ho acceso, per cui fino adesso, ho detto adesso l'accendo un pochettino. C'è classe la gente, per cui mi è ancora, aspetta adesso fra poco arriva i miei figli che sono invitati a cena, così che per immaginare, succedono anche queste cose. Quello sì, non lo so che succede anche queste cose, non sei giuro, fai nessuno. Faccia, bisogna anche attendere che attendere. Almeno passi qualche oretta diversa dagli altre ore, così. Hai visto? Se la piovendo stai. Fa bene. Serena. Quello sì, ma va messo anche allerta, ha chiuso le scuole il sindaco. È cosa che si grida che fa di attemporare il voto di chi di. Ha chiuso le scuole, si ha chiuse qua, a Ghero e Sorso, e sono chiuse le scuole, e domani non si sa. Domani si sa, vediamo un po' se riesce a fare, ma invece oggi non è che sia forte l'acqua, è anche calma, stamattina siamo saliti a piazzare i segni, stava piovigginando ogni tanto, gatta, infatti abbiamo volato subito, se ne siamo andati, abbiamo fatto diretto così, abbiamo preso quasi niente, ma siamo saliti più o meno per farci un diretto, capito? Però la mattinata non era tanto buona, e per cui ce ne mancavano parecchie bancarelle, così che Evidentemente sapevo che io gli facevo giornata così e non ho piazzato, capito? Perché il sindaco invece che gli ha detto la protezione civile che era una giornata disastrosa, quindi hanno pensato a non piazzare, ma certi hanno rischiato e hanno trovato la giornata che era, quindi... vabbè, purtroppo se vi dobbiamo fare così. Lo sindaco, caso faccio fare il voto, non stanca, caso lo faccia fare, stanca, all'inverso infatti su sindaco. Grazie, ma non era una giornata proprio da chiudere le scuole. Ma a lui chi gliela avverte? È la protezione civile che chiamano quella di coso tra Olbia e Cagliari. Sono collegate in tutti e tre, sono collegate, quindi chi ha diramato ancora è la protezione civile di lasciare le scuole chiuse. Ma si vedeva da un risale in poi, l'ha fatto vedere ieri, da un risale in poi era Olbia eccetera, ma Sassari no. Si vedeva sì qualche goccia però, si vedeva che faceva qualche goccia e basta, mentre le altre parti si vedeva tutto che faceva forte, capito? Infatti è così, purtroppo non si può fare nulla. Poi è andata così, e pazienza, è andata. Vabbè, sai com'è. Che tempo brutto ne sta facendo qua, noi siamo tranquilli se l'avesse, no, hanno preso la percola, si sono anticipati per essere più tranquilli, però non era una giornata da chiudere le scuole oggi, ecco. Evidentemente la protezione civile si è sbagliata. E allora secondo il meteo è che gli dà, che vedono, allora per non rischiare chiudono, fanno chiudere. Però a Olbia la stessa cosa, a Cagliari era la stessa cosa. Quindi Oristano e quelle zone lì, le scuole sono rimaste tutte chiuse. Ma è tutto al rovescio a farlo, capito? Quando c'è il temporale brutto lo chiudo. Per carità, a che punto siamo arrivati, però loro si pigliano di sicuro, capito? Infatti, sì. Attento signor Macchisetto, niente a fare, né Macchisio, né Graziano. Tutti nel targo solo, non temono l'acqua, ragazzi. Graziano, se non si racconta di Sant'Enna, si che va sempre in stazionarie alte, quando piove. Quando piove aumentano l'umidità, ma io non ce l'ho. C'era un tacchetto sempre, per cui no. Poi se dovesse aumentare, faccio l'accordatore, me ne butto in terra, capito? Ma a te non ti si aumentano, cosa ti si aumentano? Non si aumentano a te, è messo a posto e tutto. Cosa? A lui è che se non mette il cambiacco e il cavo e mette a posto il coso, se li aumentano sempre. Ma io se vuoi cerchia, cappeggia volando, gatto, di assedi, che sono... Gli abbiamo preso noi il cavo, gatto, che lo piazzava, invece già un anno il cavo è sempre a parte, ci siamo fermi per piazzargliela, evidentemente non ha intenzione, perché sennò avrebbe detto, io venite e lo facciamo, invece no, non c'è tempo, boh, impegnato. Non ne ha voglia, vai, non interessa, se no quest'ora sarebbe stata piazzata. Io ammetto che lui magari quelle condizioni magari viene, ma se siamo offerti varie volte, per cui faccia come vuole. Peggio per lui, se dangia così. Iuia, che andiamo per andiamo, bubu, sì. E che è PMRM? Ah, io lo sento, ah, ecco la cosa, intendiamo nessuno, voglio fuori, fuori in un'altra frequenza, e gli un grido. Ah, oh, sì, beh. Non mi ricordo il posto, pareva un bel lontano. Ah, lo vedi? Io già mente, invece non è quella frequenza, aspetta. Con qui, con Luca Manicomio, Alice Tito. No, aspetta un attimo che c'ho tutto fuori frequenza. E chi? L'apparato che c'ho io. E come mai? Boh, non lo so. Tutto. Ma quale però? Si chiama me? Controlla la frequenza bene, c'è che c'è qualche numero diminuito. No, l'ho messo a posto. Toccato la bloccalo per quello, in modo che se tu non te la metti così tocco qualche tasso e sparisce, capito? E invece metti il bloccalo, non si muove più. Ecco, adesso è a posto, no, è a posto. Buonasera signor Bacchisio. Ok, dimmi dove chiamare, rimani e non mi hai chiamato. Ah, così è, impegnato ieri. Ma quale, quello che c'ha i cani o quell'altro? Oggi compreso. Certo, è di causa di infarto. Ah, quel funerale lì era. Non lo sabbia io. Oggi visto, si vira un bel di macchine, virani. Quindi non ve la rubo mai tra la macchina al posto tuo. Andiamo bene, andiamo bene, andiamo. Prenda Giorgio Marini. Riprendiamo il passaggio al Bacchisio. E ieri Torre si stava sgolando. Già ti ha chiamato una e due volte. Ah, che rauco era. Bacchisio e Bacchisio è lungo. Bacchisio è impegnato. Comunque, buonasera, ben sentito, signor Bacchisio. Avanti. Che andiamo a andiamo a signor Bacchia, c'è che ancora già avuto questo rubinetto? Da Mariani, chi tu gli avvira via, ma cazzo costava 35 euro, in me di tutto. Era 35 euro costava, allora sono andato da Mariani, e da Mariani ha già pagato 15 euro. Quasi uguale, però no, sotto, siccome sotto c'ha un dado con un filtro, senza quello lì. L'ho preso da Mariani, tanto che coso. Sono saputo me l'aveva ordinato da internet, aveva fatto prima, con 9,90 euro, con 10 euro ne aveva ordinato due. È uguale, E vabbè, ormai ha già comparato e non vi penso più. Va bene così. Ok, Giorgio Marini. Che è il rubinetto questo? Non mi dai il rubinetto della pastriccia, no? No, il rubinetto del coso, delle... delle cose che dà corrente, e come si chiama? Come si chiama? Vabbè, l'importante è l'abbi preso. Quando serve una cosa bisogna, se non preciso preciso, in modo che si adatti, va bene ugualmente, penso. Sì, no, preciso è preciso, solo che il mio c'ha il dado sotto con il filtro, che puoi mollare quello e fare scendere la benzina per spulgarlo. Invece questo non è sotto, è tutto fisso. Ma pazienza, uso quello lì, già andava. Andava a testi, dai. L'importante è che vada bene, quello che conta. Vero, signor Bacchi? Ma tardi te ne sei salito la campagna. Come sempre, c'è Luca, c'è Giulio, mi sembra, e il basso è... Eia. Va bene così, avanti, certo. Vabbè, così. Purtroppo. Signor Bacchi, sono cose che capitano. Un giorno me lo fai vedere e te lo dico io dove, e me lo fai vedere e se si può arrangiare. Si può arrangiare, se infatti ci ho fatti dei gozzi, ci ho fatti, ma in alluminio era? Sì, era allora, di cui veniva a San Lugusci, se non pensi, di cui veniva a San Lugusci. Aspetta, tanto a me mi si è rotto, che possiamo fare una cosa, se guardiamo a vedere se è preciso, smontiamo, lo smontiamo e te lo metto dentro, il pezzo che c'ho io. Bacchino, sei uscito? Adesso sì, adesso sì. Già ti ho visto. sì. Andave. Io ce l'ho il pezzo che ho cambiato. Quel pezzo si può smontare l'affare che giri. Se può togliere quello e mettere quello lì, già ce l'ha la levetta. No, se è smontabile quello che c'hai tu, ci sono due viti da me, si tolgono le due viti e si apre, si toglie. Se c'ha le due viti da te si può togliere lo stesso e mettere quello che c'ho io. Vediamo cosa si può fare. Anda bene, signor Giomarini. Okay. Che la festa è? Della benzina? Ma se ti vuole metterlo, ma chi? Cazzo, se c'è l'attore, glielo metti e se va bene. È meglio che ci sia la festa, no? A me si mi è rotta, ho trovato un ramo, capita, perché ho tolto la mano, quella levetta rossa che c'è per emergenza, no? Io ci metto la mano e cammina, quando se tocco la mano o se lo metto in ferma si spegne il motore, quella lì si mi è tagliata e quindi fa male, e l'ho cercata dappertutto e non sono riuscito a trovarla. L'altro giorno sono andato da cosa, da quello che andando alla piazzetta, ma il cavolo si chiama, più in giù, e quello prende tutta roba del Lombardino, eccetera, tutta roba dei motocoltivatori, eccetera, allora l'ho trovata lì, 35 euro gliel'ho messa. Parecchia roba quello lì, sì, infatti mi sono comprato anche le zappette nuove, anche un prezzo buono mi ha fatto, per cui ho comprato la levetta e le zappette nuove, le zappette non gliele ho cambiate ancora, una sera che faccio la tabella ci scendo e me le cambio, almeno c'è le zappette nuove, non le avevo mai cambiate, in 40 anni più ce l'ho, mai cambiate, ma gliele ho comprate per essere più, perché è un po' consumate, capito? No, ma infatti ci volevano, dai, erano consumate, erano diventate più piccoli, e mentre sono più lunghe queste qua, per cui va benissimo. E le ho comprate, per cui adesso, ad un certo tempo, gliele piace almeno, scende anche di più. Bene, signore, sono meno 5, io chiudo, per cui ne approfitto, io vi ringrazio la piccola chiacchierata, anche se è breve, ma è un piacere sempre, ok. Ciao Bacchisio, buon proseguimento, saluto di casa e ci sentiamo. Aspettate a Torino, torni prendi tu, io chiudo, dai, buon proseguimento. Saluto di casa. Ok, ciao Giommagli, ci sentiamo alle prossime, ok. Va benissimo, riprendi Bacchi. Un altro paio di giri. E infatti, io sono passato da quello da Pintus, c'è un amico mio lì che lavora, quello mi ha servito, un amico mio, ha detto lascia sta, ma di Turubrisio 35 euro, no, lascia. Ah, sono salito da Mariani e me l'ho preso da Mariani. Sì, che dice che ho pagato da Mariani e non costa poco. 15 euro. Ed è minore di Duburu il tuo rubinetto. Vabbè, tanto avere una tesi, è quasi preciso, so che non c'aveva il pezzo dove c'era il filtro sotto. Ecco cosa è. Vabbè, un'altra volta, me li ordino da internet. Infatti, devo molto attento che non mi si faccia la torra, anzi che non li faccio, anche deve essere già zuppato se è fasciato. E vabbè, stavo lo lascio così rodasso, mentre e mi va bene. Alla prossima volta me lo dire giù da pura. Mi compri? No, per internet. Bisogna vedere se è precisa però. Oh, cioè, beh, da un poco. Forse da là te l'hanno mandata dalla fabbrica. Te l'hai ordinata da fuori. Infatti, quello che hai ordinato da voi è ripaimiato. E anche te, Cantoni Vuliani? Pensa un poco. Se hai ripaimiato, già hanno 110 euro. Fammi così da. Allora, se ne mangiano loro, hai compreso. Ehi, bisogna far così puro, pure noi bisogna far così, ordinarli da pura. Devi pagare 180 euro però, e paghi più poco, ma manco sei sicuro che chissà, ma invece dai un po' di voce perché sta attenti, ci mangiano 180 euro, ci mangiano. Vabbè, l'importante è che te la consegnano. E infatti è meglio così, ma così sei tranquillo e tutto. Ma che cosa è? Dalla moto zappa? Ma non capito. La serranda di garage. Ah, della serranda del garage. E allora te la metti a posto e tutto, e a voglia. Cos'è? Per sollevare e scendere. Tanto che ha una precisa, ma tu te la cambia o te la cambia il coso? E sicuramente sì, te l'ha bruciata lui sì. Stato circuitata, magari ha toccato qualche filo che non doveva toccare, ha saputo un cacciavite in mezzo e l'ha bruciata. Vabbè dai, signor Bacchi, sono le 8, passate, ci sentiamo domani se tutto va bene, ok, ciao signor Bacchi. Ok, ciao Bacchi.